io sono figlio unico, quindi posso fare appello al mio senso di osservazione, ma non alla mia esperienza. E sto per parlare di fratelli. Tutti voi avrete notato quanto i fratelli che conoscete, o il vostro fratello se ne avete, insomma, quanto tra fratelli si possa essere diversi, non tanto fisicamente, anche se ci sono fratelli che in realtà non si assomigliano, ma soprattutto come indole. È uno dei grandi misteri che vengono dibattuti, no? Fratelli che crescono con gli stessi genitori, educati nello stesso modo, che hanno le stesse esperienze di vita, eppure che poi nella vita stessa cambiano, magari uno è più chiuso, più riflessivo, e l'altro è più solare e più aperto, uno magari più impulsivo dell'altro, e allora si comincia a dire delle cose anche un po' a caso, appreso dal padre, appreso dalla madre, però qualcosa che ci faccia assomigliare. Insomma, qualcosa c'è quasi sempre. Non vi assomigliate, ma si vede che siete fratelli, questo si suol dire. È una impronta familiare, un imprinting, qualcosa che spunta all'improvviso e che accomuna i consanguinei. Beh, i nostri protagonisti di oggi sono due fratelli. Vi posso assicurare però che, per quanto possiate cercare, difficilmente troverete tipi più diversi tra loro sulla faccia della terra. Due persone diametralmente opposte, quasi da far pensare a due nati e cresciuti in famiglie lontane, mille miglia tra di loro, con usi, costumi, abitudini, gusti estranei gli uni agli altri. E invece no, parliamo di due fratelli nati dalla stessa madre, si presume anche da lo stesso padre, mater certa est, pater poi vediamo, insomma, comunque cresciuti in una famiglia all'antica, famiglia di stampo religioso, cresciuti assieme in questo contesto familiare, con il fratello maggiore che è un medico, un filantropo, un assertore di una vita sana, morigerata, vegetariano, astemio, casto per tutta la sua esistenza, disinteressato ai soldi, e il fratello minore invece che è un imprenditore di successo, ma è anche un fumatore, un bevitore, amante della buona cucina, sposato due volte, padre di 5 figli, molto interessato alle donne e anche a quelle che non erano le sue mogli. Beh, certo, sono quelle più. Beh. Comunque, è attaccatissimo ai soldi. E, insomma, avete capito, il diavolo e l'acqua santa, due che non c'entrano niente l'uno con l'altro, eppure fratelli. Perché vi vogliamo raccontare la storia? E beh, probabilmente loro due non li conoscete, ma il loro nome è famoso in tutto il mondo. Loro sono John e Will Kellogg, proprio quelli dei famosissimi Kellogg's Corn Flakes. Hey, did you see what I see standing in the road? Kellogg's bright new faces on the All-Star Breakfast Show. Kellogg's for breakfast, no better way to start the day. It's smiling food, it's good for you. Start you off with a hoop-de-doo. It's Kellogg's for breakfast. Happy day. Questo era l'audio di una pubblicità televisiva americana storica, 1952, uno dei primi spot realizzati per i Corn Flakes Kellogg's, che vengono presentati come la miglior colazione possibile, alimento buonissimo, sano, nutriente, con proteine, carboidrati, povero di grassi, insomma il modo migliore per iniziare la giornata. Beh, questo alimento forse non ci avete mai pensato, ma naturalmente non esiste in natura, è frutto dell'inventiva, della capacità imprenditoriale proprio dei nostri due protagonisti, i fratelli Kellogg, e oggi noi racconteremo la loro storia e vi assicuro che vi stupirete, perché è una storia che parte da molto lontano. Bisogna tornare indietro alla metà dell'Ottocento, andare fino al Michigan, estremo nord degli Stati Uniti, al confine con il Canada, in quel paradiso di straordinaria bellezza naturale che è la terra dei grandi laghi. The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. ci troviamo a Tyrone Township, è una piccola comunità rurale nella regione di Livingston, nel Michigan. Siamo veramente vicini al Canada, terra ricca, difficile, dove in quegli anni la lotta per la sopravvivenza era durissima. Qui vive la famiglia Kellogg, il padre John Senior, agricoltore, rimane vedovo con 3 figli, così sposa la domestica di casa Ann Janet, con la quale mette al mondo altri 5 figli, 5 più 3, 8. E il secondo di questa cucciolata da 5 si chiama John, viene chiamato John come il padre, nasce il 26 febbraio 1852, bambino malaticcio che per poco non muore di tubercolosi, che passa tutta la sua infanzia a letto, rimane analfabeto fino a 9 anni. Bisogna anche dire che i Kellogg in realtà non sono molto propensi a far studiare i figli, perché sono membri della Chiesa Avventista del Settimo Giorno, che è un movimento cristiano intransigente che sta aspettando l'imminente seconda venuta di Gesù Cristo, evento che deve decretare la fine del mondo. Quindi in realtà uno cosa studia a fare? È meglio pregare in attesa del giudizio universale. E i figli devono aiutare il padre nel suo lavoro. John non fa neanche quello, perché non ha il fisico dell'agricoltore, però non viene curato, un po' per il credo dei genitori, un po' perché all'epoca in realtà, insomma, dei medici ci si fida veramente poco. Ascoltate il professor George Knight, esperto di storia americana. Madison in the mid-19th century. La medicina della metà del XIX secolo si basava sulla teoria del bilanciamento dei fluidi corporei. Il salasso era una pratica diffusissima. Se qualcosa non andava, ti toglievano una gran quantità di sangue e pensavano di risolvere così la malattia. Ma naturalmente non funzionava affatto. Inoltre, le medicine erano praticamente tutte a base di arsenico e di mercurio. E quindi ti distruggevano il fisico. Nessun ricco della metà del XIX secolo andava all'ospedale. Semmai i medici curavano a casa. E questo perché, siccome ancora non si conoscevano i germi e il sistema di contagio delle malattie, negli ospedali allora si moriva. You died in the hospital. E per fortuna il nostro protagonista, John Kellogg, non muore, viene curato, maluccio coi metodi dell'epoca, ma comunque se la cava. Nel frattempo, nel 1856, quando John ha 4 anni, la famiglia si sposta, viene venduta la fattoria, i Kellogg si trasferiscono a Battle Creek, una cittadina sempre nel Michigan, dove John Senior apre una fabbrica di scope. Tutta la famiglia si dà da fare in questa fabbrica, ci lavorano il padre, la madre, tutti i figli. John però, anche quando è guarito, in realtà non ama fabbricare scope. È andato un po' a scuola verso gli 11 anni, si è appassionato alla lettura, adora i libri, esprime il desiderio di studiare e di diventare un insegnante. You, who are on the road, must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry. So just look at them and sigh, and know they love you. Per esercitarsi nella scrittura, John va a lavorare per James Springer White, che è il capo della Chiesa Avventista di Battle Creek. Lavora anche per sua moglie Ellen, che è una profetessa della Chiesa, così è considerata. E i due hanno una casa editrice. Insomma, John approfondisce aspetti della dottrina, in particolare quelli legati alla scienza dell'alimentazione sana, al vegetarianesimo, all'astinenza sessuale come pratica salutistica. e John comincia a scrivere diversi articoli sull'esigenza di attuare una riforma sanitaria, comincia a fornire esempi di una corretta nutrizione che sconvolgono totalmente le abitudini degli americani dell'epoca, che hanno un'alimentazione basata sulla carne, sui grassi, un'alimentazione di natura animale, insomma la tipica colazione americana dell'epoca è uova fritte nel burro e bacon. Lui si appassiona a questo tema, i coniugi White gli propongono di andare a studiare medicina all'università e addirittura di finanziare i suoi studi, sì, perché loro hanno in mente di aprire quella che oggi potremmo chiamare una beauty farm, una specie di rehab dove disintossicarsi da alcol, caffè, fumo, alimenti di natura animale, insomma tutto quello che loro reputano dannosissimi per la salute, un luogo dove praticare la dieta vegetariana, bere tanta acqua e astenersi totalmente dalla pratica sessuale. Insomma, potrebbe sembrarvi un luogo infernale, a me lo sembra, ma questo non è influente ai termini del nostro racconto, e diciamo che i White credono fermamente in queste loro teorie e vogliono nominare John Kellogg responsabile del loro sanatorio, perché loro ormai, insomma, lo reputano un figlio. E così John Kellogg, con la benedizione del reverendo White e di sua moglie, un po' degli Adinolfi ante litteram, parte per il New Jersey e va a studiare idroterapia, che è la pratica legata all'uso terapeutico dell'acqua, che è vista come una vera e propria medicina. Poi si sposta alla University of Michigan Medicine School e infine si laurea 1875 nel prestigiosissimo Bellevue Hospital Medical College di New York, che era riconosciuto allora come una scuola di medicina, diciamo, leader della nazione. E nel 1876, a 24 anni, il dottor John Kellogg torna a Battle Creek, è pronto a affrontare la sua nuova vita, la sua professione di direttore nel sanatorio dei White. Ma intanto nella sua famiglia di origine sono successe delle cose. È successo che il 7 aprile 1860 è nato Will Kate Kellogg, il fratello minore di John Will, è il suo esatto opposto. Pieno di salute, vivace, comincia a lavorare col padre, dimostra subito le sue doti di imprenditore, a 14 anni sviluppa la rete di vendite dell'azienda di famiglia che ha molto successo. Un ragazzo che già a 14 anni, insomma, si segnala per essere uno che ama la bella vita, gli piace mangiare, bere, fumare, gli piacciono le ragazze, si sposerà due volte, diventerà padre di 5 figli. Quando John torna a Battle Creek, vuole al suo fianco il fratellino, diciamo, lo vuole nella conduzione del sanatorio. Ascoltate lo scrittore Richard Schwartz, che è il biografo di John Kellogg. Il rapporto tra John Harvey Kellogg e suo fratello minore, Will Keith Kellogg, era il tradizionale rapporto in cui il fratello maggiore dominava quello minore. Il fratello più piccolo era quasi sempre, per John, il suo schiavetto. John Harvey's man Friday for much of the time. Insomma, è chiaro che ci si domanda, ma perché Will, che ha iniziato una carriera brillante nell'azienda paterna, accetta di fare da secondo, quasi da tirapiedi al fratello? Beh, intanto ci sono 8 anni di differenza. John ha 24 anni, Will 16. John è laureato in medicina, mentre Will ha un livello di istruzione decisamente più basso. E poi, insomma, è un'epoca nella quale i fratelli maggiori hanno potere decisionale sui fratelli minori. Quindi Will, magari ho torto collo, ma deve lavorare con, o forse è meglio dire per, il fratello John. C'è parecchio da fare lì nella clinica, diciamo, nella farm. Le prospettive sono interessanti. Il dottor John Kellogg crea il suo Battle Creek Sanitarium, che non ha uguali in tutto il paese. Insomma, diciamo una via di mezzo tra una spa di lusso e un ospedale modernissimo. Le persone, secondo lui, imparano a stare bene. È un luogo esteticamente bellissimo, super attrezzato, con gli ospiti che arrivano vengono accolti da uno staff di infermiere vestite di bianco candido, da un gruppo di esperti nelle varie discipline mediche. poi vengono visitati e si crea una scheda con i loro dati, peso, altezza, eventuali malattie in corso, poi vengono intervistati per conoscere le loro abitudini alimentari e di vita, insomma si arriva a avere una fotografia dello stato di salute dell'ospite e così inizia il programma: bagni, massaggi, esercizi ginnici, una dieta speciale che viene mirata, confezionata su misura per ognuno, e poi le palestre altamente attrezzate, i macchinari di nuova generazione che aiutano negli esercizi. Insomma, il sanitarium di Kellogg diventa il luogo per eccellenza dove quelli che possono permetterselo vanno per rimettersi in sesto. È una novità assoluta per l'epoca, fa scalpore e fa parlare anche, perché cominciano ad andare lì persone famose: George Bernard Shaw, Henry Ford, Rockefeller, Thomas Edison, perfino la famosa pilota Amelia Earhart e perfino il presidente degli Stati Uniti William Howard Taft. E le teorie, le applicazioni di John Kellogg diventano famose in tutti gli Stati Uniti, molto radicali, niente carne, alcol, sigarette, attività fisica, niente sesso. Chi va da lui per farsi disintossicare da una vita di eccessi sa che si tratta di un breve periodo, una settimana, al massimo due, insomma la cosa per due settimane si può anche fare. Uno dei personaggi più conosciuti che frequentano questo centro, che diventa direi un testimonial del dottor Kellogg, è il grande Johnny Weissmuller, uno dei più forti nuotatori della storia, 5 volte medaglia d'oro alle Olimpiadi, gli abbiamo anche dedicato una nostra puntata. Il Weissmuller che poi diventerà l'interprete per eccellenza di Tarzan. Ascoltate il racconto del regista Jim Middleton. Johnny Weissmuller, prima di diventare Tarzan, è stato un grande nuotatore olimpico e Kellogg lo definì il fisico ideale. Realizzò con la sua figura dei parametri di confronto. Lo fece sistemare contro una parete bianca e ne delineò i contorni per mostrare poi la postura, il fisico possente. Mentre era ospite a Battle Creek, il dottore lo persuase a diventare vegetariano e a seguire il suo programma biologico. Johnny si attenne alle sue indicazioni e durante una delle permanenze migliorò il suo record mondiale proprio nella piscina del sanatorio. Sicuramente Weissmuller avrà anche seguito le indicazioni del dottor Kellogg quando si trovava ospite del sanatorio, ma per sua fortuna non le ha seguite nel resto della sua vita. Si è sposato 5 volte, ha avuto un sacco di figli, insomma si è divertito nella vita. Però sicuramente, insomma, per un atleta seguire una certa alimentazione, addestrarsi in maniera particolare nei periodi precedenti alle gare, insomma, è un fatto assodato anche oggi, e in quegli anni forse lo era un po' meno. Insomma, il merito di John Kellogg è quello di essere stato un precursore di queste teorie che sugli sportivi sono inconfutabili, per fortuna, non sui cantanti. E se per gli ospiti le limitazioni terribili imposte dal programma Kellogg durano il tempo della loro permanenza a Battle Creek, per John Kellogg la cosa è diversa. Lui ha uno stile di vita più che monastico, direi: non mangia carne, non mangia prodotti di origine animale, è un protovegano, non beve alcol, non fuma, si allena tutti i giorni nelle sue palestre e non ha nessun tipo, e lo dico con la morte nel cuore per lui, non ha nessun tipo di attività sessuale. A un certo punto si sposa Ella Eaton, una dietologa che lavora nel suo istituto, con la quale evidentemente ha molte cose in comune, la pensano allo stesso modo, perché il loro matrimonio dura 41 anni, non viene mai consumato, i due quindi non hanno figli, poi in realtà adottano una quarantina di orfani. In tutto questo, però, ci dobbiamo chiedere che fine ha fatto l'altro fratello, Will, il fratello, diciamo, normale. Beh, Will lavora nell'ombra, tra poco però toccherà a lui dare il suo colpo d'ala destinato a regalare fama mondiale e imperitura al nome Kellogg. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. I nostri protagonisti di oggi sono i due fratelli Kellogg, John e Will, gli inventori dei famosissimi cornflakes che hanno rivoluzionato il concetto di colazione del mattino. Vicenda la loro veramente particolare, soprattutto perché ci troviamo di fronte a due fratelli diametralmente opposti in tutto, per carattere, per abitudini, per atteggiamento nei confronti della vita, per stile di vita, per gusti. John Kellogg è medico particolare, per certi versi precursore delle moderne concezioni, secondo la quale noi siamo quello che mangiamo. E allora io sono molto gustoso, per esempio. Comunque, convinzioni che vanno contro le teorie dell'epoca, per le quali gli alimenti di origine animale sono alimenti nobili, per le quali i grassi sono indispensabili per stare bene. Bene, John Kellogg invece è un vegetariano integralista, crede nella bontà di una vita senza alcol, senza fumo, senza caffè, senza sesso, in linea anche col suo credo religioso che si rifà alle dottrine della Chiesa Avventizia del Settimo Giorno, che ha il quartier generale proprio nella sua cittadina Battle Creek nel Michigan. John mette in pratica queste sue dottrine nel Battle Creek Sanitarium, che è una specie di modernissima spa di lusso incrociata con un ospedale super attrezzato. Diventa direttore di questo centro, utilizza molte sue invenzioni, alcune particolari. Ascoltate Gart Stolz, che è il curatore del museo Kellogg. Questa è la famosa macchina per irrigazioni intestinali. Quando la descrivo, i nostri visitatori si divertono sempre molto, anche perché contiene qualcosa come circa 8 litri di acqua, che sono tanti, ma il liquido non veniva introdotto nel corpo tutto in una volta. Era una sorta di flusso continuo che puliva l'intestino. Il dottor Kellogg poi pensava che il sole facesse bene, ecco perché aveva inventato un macchinario che riproduceva la luce solare, una specie di scatola dove i pazienti si sedevano per alcuni minuti e ottenevano i benefici di 2 o 3 ore di esposizione al sole. È piacevole e caldo, ma bisogna starci poco, se no si suda troppo. E spesso gli ospiti della struttura di Kellogg esortano John a capitalizzare le sue invenzioni, a brevettarle, insomma potrebbe diventare milionario. A lui fondamentalmente non interessano i soldi, il suo desiderio massimo è convertire, è spingere più persone possibile a seguire i suoi insegnamenti. Lui vuole essere famoso, avere amici influenti, ma non per amore di ricchezza o di potere, semplicemente per raggiungere, diciamo, la gloria nel campo di questo mondo che è una via di mezzo tra la medicina e la voglia di redenzione. È contrario quindi al concetto di brevetto, specialmente quando si parla della salute delle persone. Non accetta che qualcuno debba pagare per essere curato. E il fratello invece vede le cose in maniera molto diversa, opposta direi. Intanto lui ama la vita, l'abbiamo detto, un bevitore, un fumatore, un mangiatore di carne, sposato 2 volte, padre di 5 figli, vena imprenditoriale innata fin dai tempi della fabbrica di scope del padre. Lui era stato capace di fare fiorire l'azienda di famiglia. Adesso capisce che quello che sta accadendo a Battle Creek è qualcosa di veramente straordinario. Quindi ha discussioni molto accese col fratello. Lui vuole brevettare le ricette, vuole brevettare le invenzioni realizzate al Battle Creek Sanitario. Naturalmente non ottiene niente. Fino a un certo punto asseconda il volere filantropico del fratello John, ma sta per accadere qualcosa che cambierà per sempre le sorti del nome Kellogg's. Something's happening and it's happening right now. Ain't got time to wait. principi della chiesa avventista cristiana del settimo giorno che John Kellogg segue integralmente, lo abbiamo detto, prevedono la dieta vegetariana stretta e un uso quotidiano di cereali diversi, grano, mais, riso, avena, cucinati in modo semplice e soprattutto insipido, senza sale e senza zucchero. E già perché John, che già insomma si è espresso in maniera abbastanza radicale sull'astinenza sessuale, considera anche dei nemici i cibi dolci, salati, piccanti, e sì, perché scatenano le passioni, mentre i cereali bolliti sono degli anti-afrodisiaci naturali. Io non lo so perché non li ho mai mangiati. C'è un termine inglese, serendipity, vuol dire invenzioni, grandi scoperte fatte per puro caso. Vi faccio alcuni esempi: la penicillina, i raggi X, il forno a microonde, perfino il Viagra, che era nato come farmaco per curare l'angina pectoris e poi invece insomma aveva quel certo effetto collaterale che può tornare utile. Bene, i fratelli Kellogg entrano nella storia delle invenzioni che cambiano il mondo passando proprio attraverso il caso. Un banalissimo incidente di cucina. Un giorno, la storia dice che era il 14 aprile 1894, John, aiutato da Will, sta cuocendo del mais, che in americano si dice corn. Viene chiamato per occuparsi di un problema in sanatorio. Quando i due tornano in cucina, trovano che il mais è diventato raffermo, non vogliono buttare via, decidono di appiattirlo con un mattarello e ottengono dei fiocchi, flakes in americano. Corn flakes, provano a tostarli, l'effetto sembra appetitoso e così provano a servire questi fiocchi con il latte come colazione nel loro sanatorio. Ma forse perché i pazienti hanno gran fame, ma comunque i corn flakes hanno un successo strepitoso. Tra quelli che lo assaggiano per primi c'è Charles William Post, che è un imprenditore texano che soffre di disturbi gastrici. Ascoltiamo Scott Bruce, autore del libro Serializing America. Post era un giovane imprenditore rampante e al Battle Creek Sanitarium vide parecchie idee con un incredibile potenziale commerciale del tutto non sfruttate dal dottor Kellogg. Si mise a curiosare e copiò la ricetta di un sostitutivo del caffè a base di cereali e quella dei fiocchi tostati, che iniziò a produrre e vendere con successo. Per la fine del secolo era diventato uno degli americani più ricchi dell'epoca e Kellogg era sinceramente indignato, perché quelle ricette provenivano dalla sua cucina. Chiamava Post l'imitatore originale delle mie idee e il suo risentimento divenne leggendario. Insomma, questo è veramente troppo per Will. Vedere arricchire gli altri con le proprie idee è una cosa inaccettabile. Charles William Post crea la Post Cereals, che diventerà la famosissima General Foods. È considerato l'uomo che in assoluto al mondo ha realizzato il patrimonio più consistente nel minor tempo possibile, cioè commercializzando un prodotto nuovo. Will Kellogg vive una frustrazione devastante e il fratello continua a non capire, nubilato dalle sue astinenze, continua a rifiutare di produrre, di vendere i cornflakes. Lui ha superato i 40 anni e decide che non è più tempo per fare il fratello minore. Insomma, è arrivata l'ora di prendere in mano la sua vita. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. Will Kellogg ha capito che i suoi cornflakes hanno un potenziale commerciale incredibile, possono essere pubblicizzati con successo, possono essere mostrati come l'alternativa salutistica alla tipica colazione americana, uova fritte e pancetta, cioè la colazione ricca di grassi. Però, siccome sa che nella vita non si può rinunciare proprio a tutto, fa una piccola variante, perché la dieta del fratello è veramente punitiva. Insomma, Will ha un'idea rivoluzionaria che gli frutterà tantissimo, ma che darà il via alla cosiddetta guerra dei cereali. Will Kellogg fa qualcosa che il fratello non gli perdonerà mai per tutta la vita. Aggiunge alla ricetta dei cornflakes lo zucchero. E beh, così i cereali sono più buoni. C'è poco da fare. La sua azienda, la Battle Creek Toasted Corn Flake Company, che diventerà poi la Kellogg's Company, nasce nel 1906 e ha immediatamente un successo strepitoso. Il suo giro d'affari arriva nei primi anni del Novecento a $1 milione all'anno, anche perché peraltro inventa un'altra cosa, il Cereal Box Prize, che è un giochino per bambini che inserisce all'interno della scatola e pubblicizza all'esterno. Insomma, lo scopo è evidente: incentivare l'acquisto da parte dei bambini. È il primo esempio di gadget nella storia dei prodotti alimentari, verrà imitato e viene imitato ancora oggi. Naturalmente John Kellogg non accetta passivamente la ribellione del fratello minore, che è passato al lato oscuro, al nemico, al famigerato zucchero, che il dottore vede come un demone, lo zucchero, che porta alla perdizione per corpo e anima. E così John scredita Will, dice che lui non può utilizzare il nome Kellogg. Invece Will può, e come, anche perché anche lui si chiama Kellogg. Allora John inizia a produrre nel sanatorio i suoi cereali, naturalmente senza zucchero. E a questi cereali hanno diritto però solo i suoi pazienti, quelli che si fanno curare da lui. Li pubblicizza come gli unici e veri Kellogg Corn Flakes. E Willy se ne infischia, lui non vuole nutrire un sanatorio, lui vuole nutrire l'America, il mondo, e si inventa la firma di garanzia che compare su ogni confezione. Attenti alle imitazioni. Gli originali, i soli veri cornflakes genuini, recano in calce sulla scatola la firma Will Kit Kellogg, a garanzia di qualità. Non accontentatevi. Scegliete solo il meglio. I'm Charlie, you know. I'm Norman, pleased to meet you. I'm Mickey, hello. Welcome. I'm Johnny. How are you doing, Harry? Johnny. My name is Davey. And I'm Ian. And guess what? I wanna be straight. I wanna be straight. I'm sick and tired of taking drugs and staying up late. I wanna confirm. I wanna conform. I wanna be safe and I wanna be snug and I wanna be warm. I wanna be straight. I wanna be straight. I wanna create a place of my own in the welfare state. We're gonna be good. We're gonna be kind. It might be a wrench, but think of the stench I'm leaving behind. I wanna be straight. E dopo anni di battaglie legali, la guerra dei cereali si conclude con la vittoria di Will Kellogg, che per primo ha fondato la sua compagnia per la commercializzazione dei cornflakes. Da questo momento in poi i due fratelli non si parleranno mai più, non si incontreranno mai più. E John continua nella sua professione di medico con le sue granitiche convinzioni che non verranno mai meno, neanche quando dopo la crisi degli anni 30 il sanatorio di Battle Creek dovrà chiudere i battenti per mancanza di clienti. A quel punto John si trasferisce a Miami, crea un altro sanatorio di minori dimensioni, prosegue nei suoi studi, alcuni anche avanzati rispetto alla sua epoca, per esempio il primo medico che pone l'accento sui pericoli della pressione alta, ma a parte questo cade nel dimenticatoio, viene offuscato dalla fama del fratello Will Kellogg, che nel frattempo è diventato super ultra milionario, è un imprenditore illuminato peraltro. Durante la depressione si inventa un sistema che allora era ancora sconosciuto per non dover licenziare nessuno. Ascoltate Joseph Stewart, responsabile della Kellogg Company. Mr. Will Kellogg, in un periodo storico in cui era difficile conciliare il lavoro con la realtà della depressione, crea i turni di 6 ore e permette a più persone di avere un lavoro. Anche se lavorano meno ore, consente a tutti i suoi dipendenti di poter mantenere le famiglie. E la Kellogg's Company prolifera, lo sapete bene, è arrivata fino ai giorni nostri, i suoi cereali al mattino sono sulle tavole di milioni di persone in tutto il mondo ancora oggi. Il nome di Will Kellogg, peraltro, è legato anche alle sue molteplici attività filantropiche. La Kellogg's Foundation, che lui istituisce nel 1930, dà il via a due prestigiose istituzioni accademiche, la California Polytechnic University di Pomona e il Kellogg College di Oxford. La immensa vitalità di Will, il suo amore per la vita, per tutte le attività belle e piacevoli che la vita può offrire, tutto criticato dal fratello John, in realtà si esprime in una passione che lui aveva fin da ragazzo e che si evolve nel corso degli anni, la passione per i cavalli arabi. Il suo allevamento di Pomona in California diventa talmente famoso che organizza delle visite guidate per il pubblico. I cavalli sono talmente belli che vengono impiegati nell'industria cinematografica. Proviene dal suo allevamento, per esempio, il meraviglioso stallone Jadan, che viene poi acquistato da Rodolfo Valentino, utilizzato nelle riprese del mitico film Il figlio dello sceico del 1926. I due fratelli, John e Will Kellogg, muoiono entrambi a 91 anni, un bel record per l'epoca. John muore nel 43 per una polmonite, nel 51 muore Will per un attacco di cuore. Al di là della loro rivoluzionaria invenzione alimentare, loro mettono in atto un colpo d'ala veramente straordinario, che è anche collaterale, diciamo, a quello delle loro esistenze diverse, quanto più diverse possibile: uno studioso morigerato, casto, e l'altro amante della vita, dei suoi grandi piaceri. Decidete voi, insomma, chi volete seguire come esempio. Io francamente la mia scelta l'ho già fatta. Se volete mandare dei commenti, scriveteci, insomma, sapete dove trovarmi. Ciao, a domani.